Barisoni si sveglia ed osserva le foglie di Excel. Ma e c'è Barisoni? Barisoni vestito stirato e dopo barba Chanel. Barisoni che ci ricorda che la borsa è amara, che la vita va avanti anche se ritarda la zanzara. Ma noi c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo. La zanzara è veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, che difendi quei cazzo di camionisti! Io tutti i giorni sull'autostrada, che son pendolare, devo lottare contro quelle merde di delinquenti, di camionisti di merda! Che non puoi andare alla tua velocità! Che vengono sotto, ti suonano, ti sfanalano e quando ti sorpassano ti stringono nella corsia d'emergenza per romperti i coglioni. Sono dei delinquenti e io li odio e io per me devono crepare tutti i tuoi amici camionisti di merda, una categoria di delinquenti del cazzo. Cazzo, cazzo. Oh, senti, è il camion. Ma l'idiota che ce l'ha coi camionisti, che dice che quando lo sorpassiamo lo chiudiamo, ma quanto può essere rimbambito se si fa sorpassare da un camion? Minchia, abbiamo il limitatore, al massimo andiamo ai 90 e sto idiota va ancora più piano con la macchina. Ha rincoglionito! Andasse a fare in culo lui e gli automobilisti come lui, che viaggiano in prima corsia a 50 all'ora, costringendo noi a sorpassarlo. Quindi andasse a fare in culo lui, coglione! Coglione! Ma se stai in corsia centrale vai a 70 all'ora, brutto coglione, mi tocca superarti sulla destra, coglione! Coglione! Come fa, Edrobe, come fa? Sono bravi, io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. La roba di camionisti, affari tra camionisti, litigano tra di loro anche qui. Noi, per carità, ospitiamo tranquillamente anche le litigate tra i camionisti, i sorpassi, gli automobilisti incazzati, eccetera, eccetera. David Parenzo in collegamento da Israele in una giornata molto complicata, devo dire, molto, molto complicata. Un cordiale saluto agli ascoltatori della Zanzara di Radio 24 da David Parenzo, collegato da Tel Aviv. Sì. Domenica andrò nella capitale, che è Gerusalemme, ovviamente, cosa che sappiamo, ma da 3.000 anni. Anni, non è che come da 3.000 anni? Oggi, come che... da 3.000 anni? Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele. Da 3.000 sempre... anni, da 3.000 anni. Ma da sempre, da quasi da sempre. Mi piace quando hai questa voce. Degli ebrei, ma è la capitale, sì, di Israele dal 1948. Cioè, voglio dire, il Parlamento israeliano dove ha sede? A Gerusalemme, sì, o Tel Aviv? Da sempre, a Gerusalemme, a Gerusalemme, ma da sempre. Sì. Allora... Non è una novità. Ah, detto, sono gli altri che si devono. Di Trump, che finalmente dopo 20 anni che il congresso americano aveva già votato, ma nessun presidente aveva il coraggio di farlo. Però il congresso americano già 20 anni fa aveva detto, vabbè, di riconoscere. E quindi vabbè, basta, niente. Io voglio dire, no, per me non è stata una sorpresa. Quando ieri abbiamo ascoltato il discorso di Trump, l'ha detto Netanyahu poco fa, e io l'ho visto. Però qui ragazzi, diciamo la verità. No, ma diciamo la verità. Parenzo ha sempre massacrato Trump. No, ma aspetta, io, fermo lì. punti di domanda. Hai fermo lì. Hai sempre massacrato Trump. Adesso devi riconoscerti, devi togliere il cappello di fronte a questa cosa. Aspetta, fermo. Ha avuto il coraggio di fare bravo. I will be the greatest president that God ever created. Allora ragazzi, torniamo alle cose italiane. Oggi un signore che è il capo della polizia, qui sì c'è tensione, come direbbe, tradimento no, ma c'è tensione sì, quello sì. Allora, diciamo la verità, il capo della polizia Gabrielli, lo dico con tutto il rispetto per il capo della polizia, per carità, ha detto una cazzata, ma una cazzata grossa come una casa. Stiamo sempre parlando della solita cosa, cioè quel blitz, chiamiamolo blitz, quella piccola manifestazione di 10 persone incappucciate, anzi no, con una maschera davanti, con i fumogeni in mano davanti alla sede del gruppo Espresso Repubblica, che è il pericolo fascista in Italia. No, pericolo siete criminali, no? Ridicoli, fascista, siete criminali. Ridicoli. Siete ridicoli. Il capo della polizia Gabrielli ha detto che è un fatto più grave questa roba qui, questa cioè il capo della polizia, c'è un impazzimento generale. Avrà motivo per dirlo, no? No, Davide, per favore, tu lo sai benissimo che ha detto una cazzata e me lo dico con tutto rispetto. Avrà motivo se il capo della polizia lo dice, ha motivo per sostenere che esiste un pericolo. Il per, fatto più grave è un fatto presente. Più grave dell'ordigno esploso davanti alla caserma dei carabinieri, cioè esplode un ordigno e il capo della polizia sostiene che è più grave una manifestazione di 10 disgraziati, di 10 militanti di Forza Nuova, che ha più elementi di noi. Dai, su, lo sai anche tu che è una cazzata, dai. Lo sai che anche tu è una cazzata. È una cazzata, punto e basta, dai. Mi pare una cosa. Ma una minchiata colossale, dai. Detto dal capo della polizia. Allora, non so queste voci di fascisti che ho qui davanti da dove siano prese. Vox fascista, vedo. Da dove? Da quale trasmissione? Da quale pulpito? Beh, ormai è molto facile. Vabbè, comunque, mandiamoli in onda, dai. Io sono fascista, il nostro movimento di patrioti. Che vuol dire oggi essere, fascista? Essere il marmo contro la palude, il sole contro la notte, la giustizia sociale contro lo sfruttamento. Quando diventa fascista, tutti i giorni vedi il rumeno, tutti i giorni vedi la zozzeria che ci devi vivere. Roma e l'Italia si difendono anche fisicamente. Un giorno salirete al Campidoglio. No, noi un giorno saliremo al potere, non al Campidoglio, è troppo poco il Campidoglio. Noi guideremo questa nazione perché siamo nel giusto e siamo nel bene. Ragazzi, no, capito, vi fanno paura questi qua, questi quattro cialtroni che dice un giorno saliremo al potere, io sono fascista. Non sono quattro cialtroni. Ma dai, non sono su, quattro cialtroni. Dai. Non dai. Sono per nulla quattro cialtroni. Dai. Se avete paura di questi movimenti, scioglieteli, nessuno sono protesterà. Sono persone pericolose, forse è meglio, ma la polizia lo sa meglio di me, quindi io mi fido delle nostre forze dell'ordine, tenerli alla luce del sole per poterli controllare meglio nelle loro azioni. Vabbè. Perché se finiscono in clandestinità probabilmente è molto clandestinità? Peggio. Allora, uno mi scrive, fatti mandare la posizione di Parenzo che gliela passiamo a Hamas. Gliela passiamo ad Hamas. Sei in un albergo, dopo aver viaggiato in business, in una, come dire, upper class, in un albergo di Tel Aviv. Vabbè, questo in business mi pare naturalmente. Cioè, hai viaggiato in business, diciamo la verità. Hai viaggiato in business. Ho capito, ma first non hai detto class. Una cosa. First non mi hai detto che ho la residenza fiscale a Londra, come qualcuno, no? Io ho la residenza. O a Bruxelles, paghi le tasse a Londra, no? Come qualcuno. Io ho viaggiato in business, certo, sì, ma avevo le miglia, ho utilizzato le miglia, quindi ho viaggiato gratis. Ma questo vedremo se sono state le miglia oppure effettivamente hai speso tanto per viaggiare in business. No, con le miglia, miglia l'ho fatto. Vedremo. Ma anche se avessi speso, non è un crimine però, capito? No, chi non ha detto sono che? Andato mascherato a minacciare gente sotto Repubblica, cioè, vogliamo capire. Ragazzi, ci i sono sono altri, non no, ma chi ha detto che guadagna quello che guadagna e spende soldi propri per andare in viaggio. Allora, ragazzi, io tornerei sulla questione di Brescia, di Calcinato, sì, di quello che ha sparato dal balcone, ti faccio ascoltare per porre fine anche alle questioni a quelli che mi hanno attaccato, che per carità quello candiderà Salvini probabilmente. No, ma che candiderà Salvini, quello c'ha 40 anni, è un disperato che c'ha 2 anni e 8 mesi da scontare, ha pure patteggiato perché ormai si è trovato in un vicolo cieco, eccetera. Allora, ti faccio sentire quello che ha detto il signor Nordio, che è un magistrato di lungo corso della Repubblica Italiana, il quale ha detto che è stato un caso di giustizia capovolta, hanno capovolto la giustizia. e che è legittimo in questo caso l'uso del... Ti faccio sentire, Nordio, non è Cruciani il becero, quello che dice che bisogna usare sempre le armi, quello che parla la radio. No, non sono io, che pure la penso così, che dal primo giorno ho detto che questo qua va difeso. 2 anni e 8 mesi per aver sparato un ladro mentre rapinava il bancomat sotto casa sua per paura e per timore, e comunque in ogni caso va difeso, ed è assurdo dare 2 anni e 8 mesi a un signore. Lo dice Nordio, il magistrato Nordio, non uno qualunque, non un passante. Dunque tiè a tutti quelli che mi hanno attaccato in questi giorni, tiè. È una sentenza che capovolge qualsiasi criterio di giustizia. Ritengo però che un cittadino abbia il diritto e in certo senso anche il dovere di difendere i diritti propri e altrui quando questi sono minacciati. Ripeto, non si trattava in questo caso di una banda di ladruncoli che andassero a svaligiare un negozio di biancheria, era una banda organizzata di malviventi, peraltro se ho ben capito anche plurirecidivi, e quindi la situazione di pericolo alla quale questo cittadino ha reagito, secondo me, poteva anche legittimare l'uso delle armi. Intanto è una serie di inesattezze che sono state dette, per esempio quella che non si possa sparare dalla finestra perché non sei tu aggredito in casa. No, la legittima difesa è quando si difende un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, quindi io posso benissimo sparare per difendere una terza persona. Se io vedo che c'è una banda di banditi che sta violentando una bambina per la strada, posso benissimo sparargli. Questa roba qui andrebbe mandata nelle scuole, capito? Questa roba qui andrebbe mandata in teleconferenza nelle scuole. L'audio a tutto volume, non io. Nordio, vi ha smerdato così tutti quelli che mi avete attaccato ciao in questi tutti, giorni. Ciao da Tel Aviv. Chi è? Ciao a tutti da Tel Aviv. Chi cazzo come è? Annuna, chi è? Annuna. Mamma mia, chi è? Annuna? Che... Annuna. Annuna, amico mio, grande scopatore, Annuna! Grande, grande amante della topa, il signor Annuna! Annuna, amico di Parenzo, e dove, in che settore lavori, signor Annuna? Nel mondo della finanza? Io lavoro nel grande mondo della finanza. Grande mondo della finanza, dove in realtà il, come dire, la gnocca è molto apprezzata in, quel se- certo, in tutti i settori, certo, è molto apprezzata. Caro Annuna, ti abbraccio fortissimo. Sei, sei il nostro faro, sei uno dei nostri punti di riferimento per le tue incursioni alla Zanzara. Sei un punto di riferimento fondamentale. Che è successo? A Tel Aviv ci, no, Parenzo mi chiede se a Tel Aviv ci sono i trans. A lui te lo chiede, poi sarà pieno di trans o no? Non so, David, che cosa fa stasera? No, ma questo è matto, ragazzi. Vuoi andare a trans stasera, David? Fermo là. Ma andare a trans. No, ma sono una vecchia scuola, ragazzi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Alfano! Alfano! Quella è pornografia, quella è essere miserabili, quella è pedofilia. Alfano è la pedofilia al potere, è il massimo dell'orrore. Ogni tanto arrivano delle belle notizie, ogni tanto arrivano delle notizie meravigliose, oltre a quella di Nordio che... Ma quella di Nordio, magistrato, che ha fatto una sua Presidente del Consiglio subito, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica subito, Nordio, per aver detto delle cose ovvie. Delle cose ovvie, delle cose normali, delle cose normali. La legittima difesa non c'è solamente nel caso in cui devi difendere te stesso, anche nel caso in cui ci sia qualcun altro in pericolo. La legittima comunque, difesa. Questa è una questione. Però prima stavamo dicendo una cosa con Hannuna, che è venuto qui a trovarmi in albergo. Sì. Tel Aviv è una città talmente aperta dove c'è un locale dove lui mi voleva far fare la diretta stasera, che si chiama il grandissimo Pussycat, dove tra l'altro siamo anche andati insieme una volta, Parenzo. No, siamo mai andati insieme. Che succede al Pussycat? Ma è un locale, è un peep show. Cioè, per dirti, tu a Gaza trovi un peep show? Vabbè, no. Ma adesso che cazzo in vuol Iran dire? Trovi un peep ma show? Ma non c'hanno i soldi, no, manco per piagne a Gaza. Te credo che non c'è il peep show? Quelli si fanno le seghe quelli che possono si fanno le seghe su internet con YouPorn, basta un collegamento, credo, no? Questa è una città internazionale, aperta, libera, ma è pieno di omosessuali, pieno di bellissime donne anche, ovviamente. è una città straordinaria, vogliono toglierci questa libertà. Cioè, dimmi, Annuna, fai una domanda ad Annuna, qual è la capitale di da quanti anni? Chiediglielo, te lo passo. Annuna, da quanti anni è la capitale di Gerusalemme, la capitale di Israele? Da quanti anni? Da 3000 anni. Da 3000 anni, risposta io secca. Io confermo tutto quello che dice Parenzo. Grazie. Grazie, ciao Annuna. Mamma mia, siamo pieni di ebrei stasera, come direbbe, no, la, come direbbe la prostituta, siamo pieni di ebrei questa sera. Anche un ebreo. Sono tra un mio amico, è ovvio, no? Cioè, ho capito. Che peraltro al telefono si sente meglio di te, è incredibile, ma si sente meglio di te. È lo stesso telefono, perché siamo nella mia camera. No, ma si sente meglio di te. La cornetta, no, ma si vede che lo tengo in mano male io, non lo so. È probabile, sì. È probabile che sia così. E che lusso qui, Cruciani, è una roba incredibile. Ma veramente è un albergo di lusso, grande. Ho visto tante camere d'albergo, ma questa è pazzesca. Vista, ma c'è una roba quasi vergognoso. Ditemi se non è il numero uno, Annuna. Ragazzi, Annuna è il numero uno. Allora, date i soldi ad Annuna per investirli, voi che come siete qui ad ascoltarci. Date i soldi ad Annuna per investirli. Sono d'accordo, tutti a me. Allora, le buone notizie però non sono solo quella di Nordio, che ha detto delle cose sulla legittima difesa, sono anche quelle di Alfano. Signor Alfano, amico mio, il tuo amico Alfano, Parenzo, tu l'hai sempre difeso, Alfano, diciamo la verità. Sì, Parenzo, difeso, ma questa cosa qui me lo rende ancora più simpatica, questa cosa che ha detto che non si candiderà. Addie, sì, ma per mancanza di voti. Come dire, molto sì. Umano, molto... Sì, amico mio, ma non è che... Anzi, ti dirò di più, molto più serio di Renzi da un certo punto di vista, eh? Vabbè, Renzi non è mai stato in Parlamento, che cazzo vuol dire? No, cioè, però Renzi ha detto, mi ritiro, se perdo il referendum, mi ritiro. È vero, hai ragione. No. Da sì, questo sì. Punto di vista, sì, hai ragione, devo dire, Alfa, se poi manterrà, vi lascerebbe vedere. Ma perché sì, ha detto così. Però ha detto, non farò il ministro e non mi candiderò. Sì, andrò a cercare un lavoro, ha detto. Qualora dovesse tenere fede a quello che ha detto, più serio, di Renzi. Sì, è vero, hai ragione. Su questo però devo dirti, se dovesse però mantenere... Però riconoscere ad Alfano sì, vero, che vero. Su questo è più serio sì, di Matteo Renzi. D'accordo. Fammelo dire forte e chiaro. No, dillo, ripetilo. Città amministrativa di Israele, che è Tel Aviv. Vabbè, dai, industriale. Abbiamo capito. Dunque, Alfano più serio di Renzi. E su questo posso anche darti ragione. Però in questo momento un po' godo, perché non è che non si presenta così per nobiltà o per un gesto, no, di nobile nei confronti del paese. Non si presenta per mancanza di voti, amico mio, per mancanza di voti. Via. Io non starò seduto sui banchi del prossimo Parlamento perché ho scelto di non ricandidarmi alle prossime elezioni. E questo è uno scoop. Sì, ogni tanto succede, Ogni tanto succede. Allora, Roberto da Roma, vai Roberto, iniziamo la sarabanda. Sì, ciao. Dimmi. Ciao Cruciani, senti? Sì, ti sento, vai, dimmi. Allora, no, niente, il discorso di Brescia, di quello sì, che ha sparato, allora... eccetera. Ma, cioè, sinceramente, se poteva fare gli affari suoi, chiamava la polizia, ma che discorso è? Ma che vuol stai dire? Ma paura certo, di che? Ma mica, paura di che cosa? Ma non cioè, è mica, ma che ne sai? Tu che stai nella testa sua? Ma che stiamo a diventare tutti giustizieri? Ma che c'entra? Non ho capito. Con la pistola, allora riapriamo i saloon, andiamo dentro, facciamo i duelli. Ma non è che questa ha sparato all'impazzata, ha sparato ai ladri, ragazzi, basta con sta cazzata. Che c'entra che ha sparato ai ladri? Ma che te metti a sparare così dal balcone? Ma beh, chi è? Era sotto, cioè, la banca, sotto casa dai, sua. Dai, secondo me non esiste, proprio una cosa totalmente assurda. Indifendibile, posso dire. Risentitevi Nordio. Risentitevi dal magistrato di prima, dai. Ma risentite. Sì, ho sentito il magistrato, però pure il magistrato, ma che discorsi so, cioè questo chiama la polizia, c'è cioè la polizia, la chiami e basta. Ma io non ho detto che è obbligatorio sparare. Io non mica dico che è obbligatorio. Ma spari e vieni condannato. Ma condannato un cazzo, due anni e otto mesi per aver sparato all'altro sotto casa tua, ma ragazzi, che siete impazziti. Ma certo, è stato un il mondo alla rovescia, tutti quelli che parlano e scrivono sui giornali, in prima pagina, tutti quanti. Quello sta facendo sicuramente un'azione cioè che è sbagliata, perché ruba, sta lì, sfascia, eccetera. Però quello che dico io, ma tu da lì sopra, ma paura di che? Non ho capito. Cioè vai fuori perché vuoi fare il... Era intimorito dai ladri, ma che magari potevano rompere i coglioni. Voleva fare l'eroe, voleva fare super sì, bene. Sì, l'eroe, 40 anni. Io. 40 poi anni. Diventiamo, guarda che tu mandi un messaggio sbagliato, Crucia, mi dispiace. È un messaggio nessun sbagliato. Nessun messaggio, perché... io non sono come qualcuno sì, dice. Poi vi leggo... Ma io non lo so come tu sei perché non ti conosco. Però quello che voglio dire è un messaggio sbagliato perché... Cioè messaggio tu. Ma sì, perché sostieni è un discorso che, cioè, chiunque si può fare giustizia, chiunque può diventare non un ho eroe, detto questo, non ho detto questo, fermola. Capito, da lì sopra si metteva il mantello, c'era Batman, scendeva sotto, ammazzava tutti, ma che discorsi sono? Fermo lì, cioè, polizia, ascoltare Nordio e fare silenzio. Che cosa, mio nipote? Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye. Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever. It's the best program ever. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il master. La Zanzara is the best radio program ever. Bye. Parenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini. Il segnale orario vi è offerto da Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La Zanzara. Vaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Naturalmente. Allora, visto che siamo sulla radio di Confindustria, parliamo in termini economici. Per un ladro, quello di morire si chiama rischio d'impresa. Se vai a fare un furto, puoi rischiare di morire. Punto. Ciao Cruciani, l'altra sera stavo passando per strada, ho visto due marocchini che violentavano una ragazzina di 16 anni e li ho visti, li ho guardati, ho detto chiamo i carabinieri e mi sono girato dall'altra parte, ho chiamato i carabinieri e sono andato via. E così si fa, no? Parenzo, vero? E ciao. Ciao. Cazzo, naturalmente di Cruciani parlo. Parli sempre di legittima difesa, però stai attento perché ci sono tanti arabi fuori che ti stanno aspettando. Quando ci sarà la legittima difesa ti aspettano fuori perché tutti i giorni offendi la loro religione, quindi per farti in culo come un capanone sarà sempre legittima difesa. Stai attento a testa di minchia quando parli, stronzo. Beh, tecnicamente questa, Parenzo, mi sembra una minaccia bella e buona da parte di questo muslim. Da parte, sì, di questo muslim. No. Vabbè, quando riguarda gli altri no. Quando vanno con quattro fumogeni è un assalto fascista, eh. Cioè, quando a parole chiaramente questo muslim che ha mandato il messaggio dice stai attento a parlare di mi fanno un culo a capanna, stai attento a parlare di legittima difesa, il muslim. Sì. Sì, vabbè. Vuoi ridere? Sai cosa diceva Alfano fino a qualche tempo fa? Signor Alfano che sì, si è ritirato dalla politica, sembra così, si è ritirato il dalla ministro politica. Degli esteri ha detto finisce il mandato e poi non si ricandiderà. Non mi ricandido, non mi ricandido. Mi pare perché dice c'è stato troppo odio anche nei miei confronti, ma voglio dire, se davvero lo fa... Sì. È più nobile di Renzi, dici? Mantiene la parola data. Renzi aveva detto, ma mantiene io non la parola data Alfano che ha cambiato 40 partiti. Dai, su, amico mio, è stato eletto con Berlusconi e poi si è messo contro Berlusconi. Dai, sì, ma si può dargli l'onore almeno. L'onore di cosa, amico mio? L'onore, Alfano, l'onore. Sai che cosa ha detto tempo fa? Ho sempre detto che se non ci fossimo stati noi a portare sulle nostre gracili spalle di un partito del 4%, quando prendeva il 4%, la settima potenza del mondo, questa settima potenza non avrebbe conosciuto la crescita e saremmo ancora in recessione. Tutto sarebbe andato il peggio possibile. Abbiamo salvato la settima potenza del mondo. Amico mio, dai su, dai. Ah, andiamo avanti. Andiamo a Gaetano da Napoli. Gaetano da Napoli. Vi ricordo che Parenzo si trova a Tel Aviv, che in questo momento in quelle zone ci sono delle piccole rivolte in corso. No, a Tel Aviv no, è tutto tranquillo. Sono qui con Cannula, che anche lui mi diceva che qui a Tel Aviv però, è la stessa sensazione che ho avuto io. A Gerusalemme, certamente domani, voglio dirti, sarà la giornata più calda. Perché? Ma te lo racconto in 40 secondi. No, domani meno anche, c'è. Sì. C'è la preghiera all'inizio dello Shabbat, la festa ebraica, certo, il venerdì certo, sera, solito, c'è la preghiera al muro del pianto, sì. E ci sarà la fine della preghiera alla moschea di Omar, vabbè, allora, che è sopra il muro del pianto. Omar quanto è bello, quello Omar quanto è bello, la moschea di Omar, sì, la pianata delle moschee. E da lì domani potrebbero esserci degli scontri, speriamo non ci siano, ma insomma questo è annunciato. Anche da questi speriamo, criminali di Hamas. Un po' di scontri vanno sempre bene, un po' di scontri. Ma che scontri? Ma sì, sì, qui non sono gli scontri ottimi, come quelli d'Italia. Ottimi gli scontri, ottimi. Qui c'è la guerra vera. Comunque, e lì ho capito, abbiamo capito tutto. In ogni caso, Gerusalemme. Ah, no, poi volevo dirti questo. Io poi vedrò domenica l'ottimo Marrazzo che è l'inviato. Ah, ti incontri con Marrazzo? Sì, adesso non so, forse la notizia potete parlare anche di uno degli argomenti preferiti della Zanzara, cioè i trans. No, assolutamente, perché no, è un amico, è un fratello. E beh, che è un amico, potete parlare anche intimamente di questa cosa. Io sai che l'ho sempre difeso e quindi è un grande giornalista, un bravissimo corrispondente. Gaetano da Napoli, vai. Gaetano. Abbiamo fissato una colazione domenica, mentre domani incontrerò il grande scrittore israeliano. L'hai già detto, sì, Gaetano. Hai già detto la seconda volta. Questo sti cazzi. Questi dicono sti cazzi. Gaetano da Napoli, vai. Ho chiamato perché già l'hai detto due volte, esatto, sì. No, il tema è che Feltri mi ha fatto incazzare un'altra volta, questa è la terza volta che chiamo per Feltri, però devo dire, poi leggo nel suo titolo, saluto Max Sord, anche una vena simpatica, quindi devo dire, se mi consenti, devo dire una cosa. No, ma Gaetano, però, amico mio, ma di che cazzo vuoi parlare? Cioè, hai detto, hai ragione, sono partito con una cosa, però poi mi è venuta un'altra idea, perché a me mi fanno impazzire, mi fanno incazzare. Non si sente bene, parla meglio. Sto fermo al cellulare. Lo so, avrai qualcos'altro che non va bene, dai. Allora, quelli che ti fanno incazzare, quelli che provano ad offendere Parenzo, dandogli dell'ebreo, che per me è una cosa allucinante, perché come se fosse un'offesa. Io non credo in Dio, io non sono come te, non credo in Dio, quindi... Però mi fa incazzare chi offende. Gaetano, ma infatti secondo me, figuriamoci, secondo Parenzo, dire a qualcuno ebreo non è un'offesa, punto e basta. No, cioè, ma poi ti volevo dire una cosa, consenti, volevo dire una cosa. Per chiarirci, non è un'offesa. Se uno mi dice, se me lo dice Fiore, ebreo ad esempio, la cosa mio, dico Fiore, il latitante, l'ex latitante lì di Forza Nuova, quello che vive a Londra, credo, e se lui me lo dice, io mi offendo perché so con che animo lo dice. Vabbè, allora Gaetano, che volevi dire? Dai. Però la cosa che voglio dire è questa: io non credo in Dio, ma chi se ne frega, che crede nel suo Dio, che crede nel suo Dio, che è Yahweh, no? Quello, vabbè, allora dai, Gaetano, che coglioni, il nome di Dio da noi, ma non so, non importa. Dai. Va bene, che è il primo vero, se noi leggiamo la Bibbia, si dice di leggere, che è il primo vero antisemita della storia. Vabbè, perché Stefano da Brescia, mi hai rotto il cazzo, Stefano da Brescia, dai, mi hai rotto i coglioni, Stefano, vai. Sì, dimmi. Pronto, Cruciani, mi senti? Dimmi. Ascolta, no, volevo fare un intervento perché ti spiego, io abito più o meno vicino a dove il signore che è stato condannato ha sparato. Molto a bene, questo molto delinquente. Bene, questi sono gli interventi che mi piacciono, testimonianze concrete, gente seria, non la filosofia. Il ragionamento è semplice, dimmi, qual è Stefano. Il discorso? Noi dobbiamo legarci al contesto in cui quel signore ha sparato. Mm. In quei giorni, in quei periodi, in quei mesi, molte case sono state rapinate, sono stati fatti praticamente reati giorno dopo giorno. In quella zona, giusto? In quella zona. Nel Bresciano Bresciano in generale. Dunque? Quindi il ragionamento è che se gli ha sparato, il clima che si era creato è colpa di questi signori. Vabbè, adesso non fare il processo. No, non faccio nessun processo, ho fatto bene. L'unico errore forse è che lo ha solo ferito, ma quello è un altro discorso. Cioè, doveva colpire meglio e ammazzarlo, secondo te? Era meglio? No, quel termine non l'ho usato. Beh, diciamo che detto, adesso... Hai detto, l'ha sbagliato, soldi. Ha sbagliato a ferirlo, questo volevi dire alla fine, sì, Stefano? Più o meno sì. E allora non avevi paura di dirlo? Il ragionamento che dico io è che questi signori... che comunque colpiscono impunemente perché sanno che tanto la legge non li può colpire più di tanto. È una dimostrazione la data Nordio spiegando. E quindi cosa facciamo? Che è un'inversione. Spariamo dalle finestre, non ho capito. No, non spariamo dalle finestre. Ah, dico ecco. Solo che, per esempio, a casa mia sono venuti, erano in cinque in casa, c'era tutta la famiglia. Sì. Ci hanno portato via macchine, soldi e quant'altro. E questi signori qua sono là che se la ridono tranquilli. Beh, questo non c'è dubbio. Hai reagito tu in qualche modo, non c'eri? Non c'era stata la possibilità, ma ti credimi che se ci fosse stata la possibilità probabilmente sarei stato al posto di quel poveretto che cioè, avresti è sparato. Hai dei fucili, delle pistole in casa, no? Ma no, questo non entra nel discorso, dico solo che vuol dire non entri, ce l'hai o non ce l'hai? Per punire in maniera esemplare i ladri. Ce li hai o allora non ce li hai? Ridurremmo il problema dei ladri. Ce l'hai la se pistola o no? Di non rischiare mica mi nulla. Dovessero dargli 20 anni a quelli del bancomat, 20 anni. Il problema è risolto. Questo potrebbe essere un argomento. Stefano, hai delle pistole o dei fucili a caso o no? No, io non entro in questa discussione. Io ti dico solo cioè, che ce l'hai o non ce l'hai? Avrà la vita rovinata. Vabbè, ma lo sappiamo questo. Da te ma voglio... quelli invece che colpiscono impunemente lo non sappiamo. Ce l'hai o non ce l'hai sta pistola non in casa? Non entro nel merito. Ti ho detto solo che ma sono solidale con lui e mi dispiace del fatto che purtroppo... Vabbè, Roberto da Vicenza. Rovinata. Roberto da Vicenza. Questo già lo sappiamo. Non c'è bisogno che ce lo dici te. Roberto, vai. Buonasera a tutti, io volevo solo dire uno che spara e colpisce la caviglia vuol dire che sta a usare la pistola, quindi non ha messo in pericolo nessuno, ha solo dato un segnale chiaro al ladro, fermati perché il prossimo ti arriva in mezzo agli occhi, quindi tutto sommato ha saputo sparare e ha voluto mettere in dimostrazione la sua capacità. Questo è, buono, questo è buono, questo diversamente è una... l'avrebbe sparato in mezzo agli occhi e l'avrebbe lasciato lungo e stirato sull'asfalto. Beh, mentre questo... così Dudici ha voluto dare ha voluto dare un segnale. Un beh, segnale. Probabilmente non era neanche da solo questo. E allora ho detto fermatevi perché al prossimo io lo tiro giù. È vero, anche, che ha sparato 11 colpi il signore di Brescia. 11 beh, colpi. Adesso, bisogna Chiarini. Capire se questi 11 li ha sparati per aria o se li ha sparati due tutti per aria. Contro... Due per aria, i 9 sono andati verso in quella direzione. Dunque per colpire la caviglia ci ha messo un po', diciamo, no? Ha impiegato però, un po' di proiettili. Non ha preso, sì, ecco, c'è da dire. Amico mio, solo un altro dettaglio. Sono dettagli che non mi interessano. Per me ha fatto benissimo. E esatto. Più no, passano i giorni, tu... più passano i giorni, più me ne dicono di tutti i colori, più resto convinto di questa cosa. Uno oggi mi ha scritto su Twitter, non so manco chi sia, con l'ultima battaglia radiofonica sparare dalla finestra sul ladro del bancomat è giusto, Cruciani è diventato a pieno titolo un profeta della destra reazionaria, che non vuol dire un beneamato, cazzo, non vuol dire nulla. Io ho detto più volte che al contrario, poi se uno vuole dare queste definizioni, sparare, l'uso delle armi è una cosa di sinistra, quello era un poveraccio, un proletario, gli altri hanno le guardie del corpo, hanno i... chi è? Annuna, chi è? Cruciani. Annuna. Annuna, dimmi che sei dalla pisciare, ma dal telefono. Dimmi che sei dalla parte parlando. Dimmi che sei dalla parte mia sulla questione della legittima difesa, amico tu che mio. Sei un vecchio amico mio. Amico mio. Tu sai sparare o no, Annuna? Io cazzate so sparare io. No, cioè cazzate sì, ma sparare con le pistole non sai no, sparare. No, no, assolutamente. Col pistolone però. Io sono un parenziano convinto, amico ma mio. Ma che parenziano? Cioè, ma per mai? Alcune cose sono un parenziano. Ma figurati, sulla difesa sono un crucianiano. Sulla sul sesso sì, ma sulla difesa personale sei parenziano? No, io sono un po' come Parenzo. Già una via di mezzo. Una via Demo di mezzo. Cristiano. Demo cristiano. Fermo là, fermo. Our leaders are stupid. Our politicians are stupid. Hey! Hey! Italia! Hey! Hai capito me dai? Italia! Hai capito me dai? Italia! Oh! Italia! Svegliati! Oh! Hai capito me dai? Colato! Colato Italia! Forte! Forza! Colato! Italia! Italia, Italia, oh no, mamma mia, bocca giù da bocca miseria, oh svegliati ragazzi, Italia, sveglia, bocca puttana. Ci vediamo, oh, ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. C'ho le palle piene! Cruciani, sei un fascio di merda! Forza Nuova ha ragione, svegliamoci ragazzi, rivoluzione violenta, violenta, immediata e decisa, senza repliche, svegliamoci contro questi comunisti di merda che ci stanno facendo colonizzare dai negri, dai musulmani e dai romeni. Svegliamoci, sveglia Italia! Parenzo, pezzo di merda! Oh, dopo 5 anni che ascolto la Zanzara, devo dire forza Parenzo, mettiglielo in culo quel bastardo fascista! Inculalo! Perché i fascisti al tempo della guerra indicavano dove erano i partigiani ai nazisti. Sono dei fetenti fascisti, fetenti, fetenti! Intenzione, tradimento. Allora, caro David, pare che aspetta, parla bene. Cannone riceve messaggi su WhatsApp. No, però signor Cannone, me lo passi un attimo, che me lo passi un secondo, passami un attimo che si sente primo, perché si sente meglio di te. Cioè, questo va bene, è la allora base. Ti passo Cannone, certo. No, non passami a nulla, allora. Pronto? Allora, ma non capisco perché si sente meglio. È incredibile. Perché c'ho un'altra presenza. No, ma è incredibile. Cioè, si sente proprio tranquillamente, perfetto, come se fossi qui in studio. Credo che tu hai la giusta distanza. Forse perché sto in piedi e ho forse la voce profonda. Sì, metti la giusta distanza tra la bocca e il microfono. È un'arte. È un'arte, non dire così perché potrebbe essere fraintesa questa cosa. Porca troia, hai ragione. E in realtà lui, secondo me, avvicina la bocca troppo al microfono e dunque stride. Vabbè, voglio chiederti una cosa: ma è vero che si fa sesso meglio essendo circoncisi? Tu, ovviamente, sei circonciso essendo ebreo, no? Immagino, sì. Io? Sei circonciso. È una domanda vecchia, però, cruciale. Lo so, no, però lo so che è una domanda vecchia, però ripetita Juvent, come si dice, no? Cioè... Ma si fa meglio per me o per lei? Che no, ne so? per te. Per me, non lo so, io sono sempre stato circonciso, quindi non ti saprei dire altrimenti. E le donne come reagiscono a questa cosa? Le donne è più pulito, più bello, è più... Come dice Parenzo, è più bello, nel senso è più aerodinamico? È più aerodinamico, certo. Cioè, sei proprio parenziano, non c'è un cazzo da fare, cioè non ti distingui da Parenzo. No, non è vero, perché ti spiego. Sporco, con lo schifo, la formaggia, una roba disgustosa, no? Mentre se tu ce l'hai bello pulito. Non è mica detto che se non sei. Ha la sua presenza, poi è più simpatico, è allegro. Però scusami, non è detto che se uno è regolare e non è circonciso sia sporco. Quello dipende anche dalla pulizia di ogni. No, che dici? Comunque, vabbè, la masturbazione è peccato, sì o no? Questo voglio capire. Secondo te la masturbazione è un peccato, come dice il nostro rabbino di riferimento? Sì o no? Secondo me? No. Non è un peccato. Dunque, tu ti masturbi regolarmente? Non l'ho detto. Sì, l'hai detto. Sì, l'hai porca detto. Troia. Ciao. Davide! Sì, ma non ho capito che tipo di conversazione. Non ti preoccupare, senti Mauro da Mantova, sì, che dice che riprende. Vediamo se si sente, mette in piedi anch'io, guarda, forse sente meglio. No, però scusami, Mauro da Mantova dice che si rimette a lavorare, senti. Mauro da Mantova. Senti, aspetta, senti. Sono carico, ragazzi! Sono carico, non ci sto più dentro. Perché domani o oggi o domani. No, domani no. Oggi o sabato vado a incontrare una carrozzeria con cui dovrò lavorare. Se ricomincio a lavorare, vogliono dire 900 o 1000 euro a settimana. Ciò vuol dire che rimetto in pedana la mia sub. Ciò vuol dire che vengo a Roma a trovarvi e a scassare quel coglione! Quel coglione lo voglio scassare, voglio spaccare quel muso e buttare giù la dentiera. Voglio vedere i pezzi viventi che si staccano. Ah, che bello! Poi li raccolgo e li tengo come trofeo. Mi metto come trofeo sto pezzo di merda! Mamma cara, quanto lo odio sto coglione! Ciccio! Signor Mauro, è ossessionato. Tu hai ossessionato. No, è ossessionato, sicuramente, va tutto bene. Diciamo, il racconto è un po' debole su quella ipotesi che qualcuno gli dia 1000 euro al giorno. No, settimana ha detto. Ah, scusami, debolissimo comunque. Debole, dice, l'idea è impossibile, che qualcuno... dice, è impossibile, dice. Se gli danno 1000 euro in un anno è già tanto. Mi piacerebbe capire, perché è una forma di carità, è un pazzo, la sua sabbia. Però c'è una risposta del karma a questo. Sai che c'è una guerra in corso tra i due adesso? Dibattito, no, c'è una guerra in corso. Ma senti, senti che eccezionale risposta del karma. Quando è imbecille, allora è carico perché forse ha trovato un lavoro a carrozzeria, forse guadagnerà sempre con questa storia 900.000 a settimana, poi carico per fare che? Guadagnerà 1000 a settimana, rimette in moto la Saab che è una macchina che aveva lui, e poi per fare che? Tutto sto bordello per venire a Roma. Sto morto di fame, ma che deve fare? Deve spaccare la faccia a Davide, che deve fare? Ma giusto con Davide se la può pigliare, perché quello non alzerebbe un dito, manca un passero. Ci dice che ieri però quando Cruciani l'ha chiamato Cocquirico, si è cacata addosso, hai visto come gli parlava Cocquirico? Eh? A Quirico gli dice vengo a Roma ti spacco la faccia, perché quello fu camionista, va lì a Mandova e gli spacco culo quando sta a Mandova. Poi ti dice c'ho amici calabresi, napoletani. È un pagliaccio, è un pagliaccio. Ma lui fa è un cagnolino, quelli lì da cortile, quelli che ti abbaiano, che quando ti avvicini ci fa così, spi e scappa. Hai visto che il karma c'ha un po', eh? Parenzo, hai sentito il karma? Sì, sì. Ti sta più simpatico il karma. Uno scontro tra cervelli proprio, uno scontro tra Nobel. Uno scontro tra Nobel. Allora, dove andiamo? Andiamo andiamo a Gioele da Pavia, vai, Gioele. Gioele. Sì, pronto. Dimmi, Gioele, dimmi. Allora, no, io volevo far presente a Parenzo, guarda, allora, volevo far presente a Parenzo questo. Allora, è due. Da lavorare, no? Sì. Io abito vicino a un bar in una stazione. Vabbè, arrivo nel bar, inizio di lavorare e mi bevo una birra. Ci sono due zingare. Sì. E niente, avevo un po' di contanti che mi avevano pagato, no? E queste due zingare si vede che hanno visto i soldi, adesso non so bene. E comunque mi hanno puntato. E mi rompevano proprio i coglioni all'interno del bar. Vabbè. E gli ho pagato da bere e niente, sembrava che era morta lì, niente. Vado a casa, io abito lì vicino alla stazione, entro in un cancello dove ci sono varie case, no? Che questo cancello è aperto, entro a casa mia. Dunque? E sotto casa mia c'è un magazzino. Niente, vado a dormire, alle 5 del mattino arrivano i carabinieri con queste due zingare. Sì. Loro avevano aperto il magazzino, ma avevano buttato delle bottiglie di birra che io gli ho violentate nel magazzino. I carabinieri mi prendono. Mi portano in caserma senza chiedermi niente. Queste qua vanno già ti hanno accusato, di violenza per due zingare recitive. Poi mi portano tu non l'hai mai toccate, caserma, non l'hai mai toccato queste zingare. L'unica relazione l'ho avuta al bar, mi hanno seguito perché io dalla stazione si vede perché scavalcavo, no? Io abitavo di fronte alla la stazione. Vabbè, allora com'è finita la storia? Mi racconta questo a me perché? Ecco. Perché cosa dovrei dire io? No, cosa niente, dovrei... no, perché i diritti non puoi difenderli se non hai i soldi nel portafoglio. Fatto sta, arrivo in caserma, mi mettono dentro la cella della caserma, mi portano in carcere. Dopo due ore mi rilasciano perché il fatto non sussiste. Vabbè, ma è una tremenda, cosa devo dire? Ha ragione. A me ad oggi sei così, come l'ha raccontata, è una storia incredibile. Risulta che cosa? Scusa. Il fatto non sussiste. No? A me però oggi quando mi fermo io risulto che sono uno che ha violentato, mi hanno ma messo no. in cella con sì. Ma no, ma figurati se ne risulta che hai violentato. I carabinieri gli altri ho capito. Mi hanno fermato. I carabinieri e risulta che io ho fatto violenza sessuale. Ma non risulta anche questo, quella è una sentenza. Che cazzo vuol dire? Non c'è stata nessuna sentenza, è stato in carcere rilasciato dopo due ore perché queste hanno detto e una risulta, cazzata. Risulta il nome del ah, sì, risulta certo che sono stato. Certo che risulta, amico mio, risulta anche che sei stato scarcerato, però non è che risulta solamente il fatto che sei stato accusato di violenza carnale ecco nei confronti di due zingari, risulta anche che poi sei stato scarcerato, altrimenti saresti in. Ma è possibile che a me queste due zingare, cioè qua, allora ma che ti devo dire, amico mio? Accetto una denuncia da due zingare, cioè sai chi sono? No, sei un carabiniere, fai un minimo controllo, ma prima di mettere dentro un incensurato che non ha precedenti, non so, non ti fai due domande. Gioele, io sono dalla parte tua, ovviamente. E bisogna vedere se è andata così la storia. Parenzio, è andata così la storia. No, voglio dire, non ho motivo di dubitare che lei ci dica la verità. Quindi figuriamoci. Se ci racconta la verità, certamente è una vergogna. Su questo non c'è dubbio. Certo, dopodiché, poi, sì. di fronte a delle accuse di violenza carnale, i carabinieri faranno quello che devono fare. Non è che fanno delle cose straordinarie, non è che siccome sono due zingari a denunciare, certo, allora sono venuti a rompere i coglioni a te. E questi hanno fatto delle denunce, poi ti hanno portato in carcere. Secondo me non era il caso di portarti in carcere. Dopo due ore si sono accorti che erano delle minchiate. Ciao Gele, ciao, ciao, ciao. Vabbè, ciao. Vai Paolo. Paolo, dimmi. No, io sono Francesco in verità. Francesco, dai. Francesco. Beppone, senti che succede. Francesco, è uguale, dimmi. Ma calcola, sai perché non ho mai chiamato? Perché fino a un mese fa, poi io facevo parte della maggioranza silenziosa. La maggioranza silenziosa non chiama. Poi no, dipende, la maggioranza silenziosa quando si indigna può anche chiamare, usare un tono civile e combattere con le armi della dialettica e della, vabbè, e allora della buona, Francesco, ragione. Dimmi. Però insomma tu ti rendi conto che stai facendo? Te e l'amico tuo Mentana. Cosa? Cioè voi avete istituzionalizzato un gruppo dei fascisti. Ora chi? Se quelli fascisti hanno il 9%. Proprio nessuno. Noi siamo andati, io, il direttore Mentana, Corrado Formigli e il sottoscritto siamo stati invitati a discutere con Casa Pound, che ha abbandonato la violenza a differenza di altri, abbandonato di la altri, violenza di altri gruppi e accetta le logiche democratiche. Io non ho nulla in comune con Casa Pound. Beh, a me risulta che loro stanno compiendo un percorso interessante di istituzionalizzazione. Un percorso interessante. Per me ma, sì. tu non eri quello Coffiano che diceva io con i fascisti non ci parlo. Adesso sei a guardi, tra i movimenti della destra, tra i movimenti della destra estrema, ad esempio, tra Casa Pound e quei signori. Però scusa, non ho capito che cosa vuol dire. Nuova. Cosa vuol dire è Francesco? Una differenza sostanziale. Cosa vuoi dire, Francesco? Non ho capito. Allora, io voglio dire che se questi fascisti adesso cominciano a entrare nei comuni, comincia a prendere il 9% nel terzo comune, è colpa di chi? È anche colpa ma di gente, non dire cazzate, a parte che se c'è gente che li vota va bene che li voti, che cazzo vuol dire? Perché disprezzi quelli che votano? Non ho capito. Perché questi si fanno al fascismo, ma qualcuno rivendica, ma che cazzo stai, tipo quello non decidi, che lo decidi te, lo decidi se è anticostituzionale, no, o no. La Costituzione, ma beh, chi lo decide, chi lo interpreti te? I giudici decidono come? Stiamo giocando. No, stai giocando tu, stai giocando. Se uno è fuori legge, non lo decidi tu, capito? Se uno è fuori legge. Ma la Costituzione. Sì, ma che la interpreti tu? Che la interpreti tu la Costituzione? E allora che cazzo dici? Ma stai scherzando? No, ma stai scherzando. Il fascismo è reato. Sì, amico mio, è reato quando. Ma non è che è automatica la cosa. Non è che se uno dice una cosa è automatica. Deve esserci un giudice, deve esserci un tribunale che decide. Quello sta facendo apologia di fascismo. Allora, chiaro? Allora, Beppe, ce l'hai in testa sta cosa o no? Beppe caro, che Beppe c'hai caro. Le pigne in testa? Che cosa no, hai? No, zero pigne. Ascolta me, Beppe. Ma tu sai che a Casa Pound è andata a discutere anche la mia amica Paola Concia, ad esempio. Sai ma chi è vergognatevi, Paola Concia? Vergognatevi, perché gente come Casa Pound va ghettizzata nel loro mondo. Questa di fascisti. È la tua opinione, che uno che io rispetto, no, ma non è la mia opinione, perché l'amico non è un'opinione, parento, che cos'è invece? Una certezza, una legge, che cos'è? No, io sto commentando l'ipocrisia di David, perché fino a 3 giorni fa lui e l'amico Sofiano erano quelli, noi con i fascisti non ci parliamo. Effettivamente, da questo punto di vista, Francesco, giorni... no, Francesco, da questo punto di vista, effettivamente alcuni elementi di Casa Pound professano chiaramente il fascismo. Apertamente, ma l'abbiamo intervistato più volte noi. Guarda, riconosco su questo. Fermi tutti, fermi entrambi, tutti, fermi ma... tutti, fermi tutti, fermi tutti. Mauro Corona con noi, eccoci Mauro. Eccolo, buonasera. Come andiamo Mauro? Bene, bene, siamo a meno 10. Meno 10? Sì, meno 10 dove? In montagna? Ci conserviamo. Beh, certo, meno 10. Meno 10? A meno 10 in montagna, da casa sua? Dove sì, sta? In montagna. Dove vuoi che sia, scusa? Lì no, ha detto. Cosa pensava fosse il PIL, quell'altro? Ma non lo so che pensava, meno 10, che pensavi che fosse? La classifica di qualche cosa? Che pensavi? Cioè, che pensavi fosse meno 10 a Milano, meno 10 in qualche salotto dove sei tu? A Tel Aviv non fanno meno 10, a Tel Aviv che tempo fa? No, saranno... a Tel Aviv ci sono, quanti gradi sono, Robert, adesso, in questo momento? Sono 15 gradi, mi pare. 15 gradi. Qui la situazione è questa. Qui abbiamo Milano con 3 gradi, mi sembra. E abbiamo meno 10, Erto. Vedi la radio, che cosa straordinaria che è. Milano. No, guarda, ecco, in questo momento 14. Stamattina però abbiamo toccato, ad esempio, i 23 allora, gradi. Ragazzi, quando sono questa atterrato. È la cosa straordinaria di questa emissione, come si direbbe un tempo, come si diceva un tempo, di, questa, di questo strumento, di questa cosa straordinaria che è la radio. Noi siamo con Erto meno 10, Mauro Corona. Il sottoscritto qui a Milano, quei disgraziati che ci sono dall'altra parte del vetro, 3 gradi, che lavorano pure oggi, che a Milano è festa, domani col cazzo, e invece Tel Aviv 15 gradi, 15-13 gradi. Questa è la situazione. Allora, caro Mauro, con queste temperature meno 10, in realtà c'è ancora meno bisogno di lavarsi, che è la nostra filosofia fondamentale. Siamo stati praticamente, siamo diventati paladini di questa nuova, di questa nouvelle vague, di questa nuova sì. Hai visto, no? Ci citano pure sui giornali. Ma sta prendendo piede anche gente intellettuali, attori, attrici, sta prendendo piede, ma noi siamo contenti. Però mi dicevi sulla questione delle lenzuola, che tu hai una cosa da raccontarci. Cioè, le lenzuola, non so se le cambi, ma le coperte. Siccome ti seguo, sì, so che cambi le lenzuola una volta al mese, più o meno, sì. Io vivo nella mia tana lì e dormo tra due coperte. Sì. Ovviamente vestito con non è un pigiama, è una specie di pantaloni leggeri, e io le cambio una volta all'anno. Cioè, però dormo da solo, non è che abbia bisogno di avere gente lì che mi allora, tiene però, compagnia. Esatto, spiegami una volta all'anno. Spiegami il tuo giaciglio un attimo. Il tuo giaciglio è fatto. Sì. Giaciglio. Ho un giaciglio dove scrivo, scolpisco, sì, mi alleno per arrampicare. C'è una panca di legno, sì, con un materassino sopra, sarà spesso 3 dita. Quanti anni ha questo materassino? Ma quello è ancora puro, avrà 10 anni. 10 anni, e sì, poi io mi infilo tra le due coperte, che mi tengono un caldo da morire. E poi sopra queste coperte c'ho un sacco a pelo aperto. Sì. Non è che mi infili nel sacco a pelo, no, come un botolo. Però resta aperto. Sì, resta. E mi sto benissimo. E queste coperte, tu dici, non le cambio da un anno. No, ogni anno, 7 mesi, 10, un anno, allora, ma più che perché sono sporche, perché si appiattiscono. Sì, ma puzzano. Allora le ravvivo. Non possono puzzare perché entro tra le due coperte con un pigiama, chiamiamolo pigiama, è una giacchetta, non sono pigiami nel senso storico del pigiama con le righe come i carcerati, ho un paio di pantaloni leggerissimi di tela e una giacchina. Senti, ma quante volte e invece le lavo? Quante volte quanto le lavi questa specie di pigiama, diciamo, no? Beh, che quello tu... lì me lava mia figlia almeno una volta ogni 20 giorni in mese. Ogni 20 giorni in mese? Sì, me quello. Le lava mia figlia. Sì. Tua figlia? E tu... non ho una moglie che mi lava io. Tu, per carità, assolutamente No, ce l'avevo, ma non mi lava più. No, ma non sia mai che lavi qualcosa tu personalmente. Cioè, io casomai brucio. Anzi, l'indumento intimo. Sì. Lo compro dai marocchini. Anch'io. Quelli che vengono perché poi non è bello le mutande, le tue sporcacionate, dargliele a lavare, allora le brucio. Ma sai io che... non ho capito, ma perché siete così? No, la mia tecnica. Siamo cinici, perché siamo veri. La mia tecnica. No, ho capito, ma io ad esempio le mutande ce le ho. Lorenzo, no, voglio dirti, amico fratello Corona, io le mutande le cambio ogni giorno. Io ho anche delle belle mutande, ma per rispetto della mia compagna, ma ho delle belle ho mutande anche sexy, dei boxer, non ma uso io le non mutande. Ho compagni. E no, ho capito, ma per rispetto di te stesso, Ma scusa, ma perché devi dire che uno che fa quello che no, fa Mauro che fa... uno che non si lava. Senta. Parenzo, io non ho molto rispetto di me stesso, ho rispetto degli altri, di chi non hanno a casa, di chi non ha un pasto al giorno, di chi viene frustato e marginato, cacciato a calci. Questo è il mio rispetto, non per me. Io non ho molto dignità di uomo, di persona. Scusa un attimo, capito? Scusa un attimo, per esempio. Ma ho capito, Parenzo, ma se quello sta bene così, saranno cazzi suoi, Parenzo, no? Tu mi conosci, sappiamo che la radio dobbiamo fare odio. Tu mi conosci bene, ti sembra che non ho dignità io, Parenzo? Ma non sto dicendo. Ma non quello, è che va valutata su, non è che va valutata sul fatto di lavarsi o no. Per esempio, io sono sicuro che a Mauro il sapore. Ma io reputo quelli che non si lavano, che hanno anche un po' di ma lo dico veramente con anche affetto. Anche un po' di di depressione di se stessi, capito? La depressione, ma quella ce l'abbiamo, non c'è dubbio. Ma anche quelli che hanno successo hanno la depressione di se stessi. Ma sicuramente, però ad esempio uno prova a tirarsi, la prima cosa quando uno sta un po' male, no? Cos'è che ti dicono? Almeno ti dicono, guarda, fatti una bella doccia, lava, tirati su, curati la barba. Ma chi te lo dice? Ma chi te lo dice? Ti dà fastidio la doccia o no a te un po', Mauro? La doccia, l'idea della doccia, dell'acqua. Ma tutta l'acqua mi dà fastidio. Qui sul Maionta abbiamo avuto la paga dall'acqua. Però ogni tanto devo farmi una doccia. Il sapone. Figurati che non riesco ad alzare. Io non riesco ad avere una buona. Mi è capitato rarissimamente di non riuscire a farmi la doccia la mattina. Vi confesso questa cosa. Rarissima. Magari il boiler rotto e quindi con la con l'acqua fredda mi dà proprio fastidio. Rarissime. Quelle rare volte che non sono riuscito a farmi la doccia la mattina prima di uscire di casa. Mi sentivo sporco non solo fuori, cioè, ma anche rispetto a. Ma chi se ne frega? Ma questa è una tua sensazione? Mi dà anche proprio fastidio. Ma capito? Questa è una tua sensazione? Non ce ne frega un cazzo. È una mia, la mia, certo, poi la sua e la vostra la sappiamo. Allora, tu sei un lercio che non ti lavi mai, Luciani. Ma lui non si lava perché sta in montagna, va benissimo. Fermi tutti, gli aggettivi. Parenzo, usa gli aggettivi bene. Lercio è una brutta è un brutto aggettivo. Forse ti senti sporco perché lo sei davvero dentro. Fermo là, fermo lì, fermi tutti che adesso torniamo, fermi. Parenzo, le lenzuola non si cambiano finché non sono croccanti. Mona. Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi devi avere? Dalle ma quelli che sono solo! Ora che la puttana è andata a fanculo! Parenzo! Ehi, hey, Cruciani! Ma che è successo? Ma scusa, era andata a fanculo! La zanzara. Giuseppe, lasciamo perdere le lenzuola che vabbè, non le cambia nessuno tutte le settimane. E magari Parenzo perché c'è la donna di servizio che se lo segna sul calendario. Ma le coperte ogni quanti anni devono essere lavate? Perché per esempio io in questo momento sono sul divano con una coperta che penso di non aver mai lavato in vita mia. A Crucia, stavo sentendo che tenevi le lenzuola anche un mese. E Parenzo, che schifo. Quest'estate, prima estate che passo fuori casa, le ho tenute per tutti i 3 mesi estivi: giugno, luglio, agosto. Le stesse lenzuola. Allora, collegato da Erto, Mauro Corona, il favoloso, fantastico scrittore Mauro Corona, nonché mio amico. E collegato, sì, chi è qua? Chi c'è? Sono Annuna. Annuna, che c'è ancora? Ragazzi, siccome ripassami Parenzo, però, dato che ci sei, voglio dire, amici ascoltatori, se volete rivolgere qualche domanda piccante ad Annuna, lui è qui fino alle 20:50, sempre un po'. Come dire, ballerino, e dunque fate rivolgete qualche domanda all'ebreo Annuna, ebreo, orgogliosamente ebreo Annuna, su questioni soprattutto che riguardano la sua attività sessuale. Nonché israeliano. Comunque ti volevo dire, io tu sei israeliano o italiano? Israeliano? Entrambi. No, non stai andando via, non puoi andare via fino alle 20:45, non puoi andare via a questo punto. Sì, però ragazzi, qui dobbiamo metterci d'accordo, perché io non posso andare via, qui voglio essere pagato. Cerca di non farmi dire delle cose che sono dei luoghi comuni sugli ebrei, amico mio. Ha detto non voglio dire cose che sono luoghi comuni sugli ebrei. Perché dice voglio essere pagato perché il lavoro si paga, perché gli, ma perché ti sto fare una pubblicità pazzesca. I cristiani non vengono pagati, scusami. Ma ti ho detto che devono dare i soldi a te più una pubblicità pazzesca. Uomo d'affari, broker, gente che uno si ma consola. Che broker? Vabbè, uomo d'affari. Uomo d'affari, sei un finanziere. L'unica cosa al massimo è che rimedi qualche cosa qui. Cioè, rimedi qualche femmina. Annuna, ma quanto è lungo, Annuna, il tuo pisello? Ma figurati se mo venga a dire in radio quanto è lungo. Sopra i 15? Ma figurati se venga a dire in radio quanto è lungo il mio pisello. Sopra i 15 o no? Ma come, come letteralmente sono cazzi miei. Ma, ma scusa, attira le persone. Attira le persone. Eh? Attira qualcuno. Attira le persone. Attira le persone, caro Annuna. Tanto comunque sei un bel ragazzo, eccetera, ebreo, dunque hai anche una fama da questo punto di vista. Si dice che gli ebrei sono grandi amatori, non so perché. Ma sì, dimmi un po' quali sono le misure. Oltre 15. No, basta no, oltre non, 15. Non mi espongo io. Mamma ragazzi. Mia, sei una delusione. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, da Erto Mauro Corona, ripetiamo, eccoci qui. Parenzo è di nuovo collegato. Mauro, allora le coperte sì, da sì, anni. Sì, sì. Andiamo un attimo sui denti. Te li lavi i denti o no? Sì, quelli sì. Quelli sì. Sì. Le scarpe? Sì. Ma io non sudo, ho la fortuna di non avere sudore ai piedi. Per cui le scarpe poco? No, cioè, ne ho diverse da camminare, da arrampicare, però... Dunque insomma, non sudi, non dunque i calzini anche lì sono... è raro che uno li possa cambiare. I sì, ma non è che sia... che dica delle fesserie. Venite su e provate a starmi vicino. No, ma io immagino, ma se gli piace così va bene. Cioè figuriamoci, no, io ho grande Parenzo, rispetto. Per te. Parenzo, io ho la fortuna rarissima di non sudare i piedi. C'è un paio di calzini, mi durano 10 giorni. Ma certo, 10 giorni... È normale. Ma perché 10 giorni? È comunque una questione di igiene personale. Ma chi te l'ha detto? Ma chi lo decide, ma tu? L'igiene personale, quando hai necessità hai bisogno dell'igiene personale. Infatti si dice personale. Se tu puzzi di qualcosa, devi lavarti. Io non, no, io ma non, io, non, a parte che non puzzo perché ho un'epidermide piuttosto allora profumata. Lavi, quindi, allora però allora mi lavo per lavi? Me stesso, per gli altri, perché mi piace essere pulito. Ma che se non puzzi, sei già pulito o no? Ma certo, ma ci sarà un motivo se i gatti si lavano ogni giorno, si leccano ogni giorno. Ma che c'entra? Devo farti una lezione di chimica. Senti, di chimica della pelle. Ma insomma, dopo un giorno, ma tu. Tra l'altro, senti, Parenzo, tra l'altro, a pulirsi troppo, finisci che non stimoli gli anticorpi. Giusto. Sono tutti malati. Giusto, perché giusto. Se tu li provochi, gli anticorpi agiscono, si attivano, ma semplicemente siete tutti profumati, dei fighetti profumati, cazzo. Bravo, bravo, bravo. Senti, ma state sporchi, che mi io voglio capire una cosa. Come bene, la vedi questa cosa della difesa personale? Sai che c'è stato questo caso, io sto difendendo pure questo, il caso di Brescia, di questo signore che ha sparato dal balcone. Io l'ho detto, ho avuto modo di dirlo attirandomi le ire della sinistra. Ricordo, io a casa mia sparo e sono un uomo di sinistra. Sì, a casa tua spari. Ma non come Parenzo, sono di sinistrissima. Però quelli che mi hanno sfasciato la vetrina, se li pigliavo li ammazzavo. E ho le palle, nonostante Parenzo e voi, ho le palle di dire quello che ho detto una volta. Non retrocedo a dire no, ho sbagliato, è un momento di ira. A casa mia sparo, punto. Sì, poi d'accordo. Collocatemi a destra, a sinistra, a destra. Ma in no, alto, ma figurati, io sono d'accordo con te. Però la questione, la questione è un'altra. Quel signore che ha sparato dalla finestra in questi giorni a Brescia, un signore. Ma che... non c'entra la legittima difesa. Aspetta, invece Nordio dice di sì. Nordio dice di sì. Ma Nordio, cosa vuol dire Nordio? Nordio. Il magistrato Nordio, Nordio veneziano. Lo conosco benissimo. E allora Nordio, ha benissimo. Detto che anche quello è un caso di legittima difesa, perché non è solamente la difesa ma delle cose proprie. Dal punto di vista del. Ma è un'opinione, ma dal punto di vista del diritto non esiste. Diglielo a Corona. Corona sarà no, d'accordo con me tu, su questo. Tu. Che cosa ha fatto? Su questo, Mauro, sarai d'accordo con me? Se uno dalla finestra, quindi non c'è un pericolo per la sua vita, è successo questo. C'era un gruppo di ladri che stavano scassinando un banco. Sotto casa, sotto uno casa finestra, sua. Prende un fucile e gli spara. Capisci no, che questo sono, qui non... Lì sono d'accordo con te. No, ma che siete matti. Si è retto a Tex Willer. Questo non Bravo. Mi interessa. Io parlo di casa mia. Sì. Casa mia. Quello c'è già la legittima difesa. Quello dove va bene, c'è, quello dove c'è. Ma non hai visto che legge che hanno fatto? Che bisogna che sia l'imbrunire. No, non è non l'hanno fatta quella legge. Infatti non è passata. Castelli. No, senti, Parenzo, vorrei fare una domanda a Parenzo. Vai, ma molto vai. Più. Falla. Vi voglio anche bene a Parenzo, nonostante Parenzo voglio bene a Parenzo. Sì, anch'io, lei, nonostante Parenzo ha dei figli, ha una casa, penso abbia un'intimità. E una sera, una notte, alle tre gli arriva gente, li sfascia, entrano dentro. Io ma vorrei sapere carità, cosa fa Parenzo. Io vorrei no, Parenzo, bravo, Parenzo l'ha detto 2 milioni di volte, non ha armi. Non è armato, perché non sa allora gestire la paura. Cosa fai? Intanto proverei a mettere... Mi chiuderei con tutta la mia famiglia in una stanza ti e... Ti chiudi in mano perché sei vile, e direi, e direi sicuramente, non saprei difendermi, direi prendete tutto ma non la mia famiglia, prendete gli oggetti ma non le mie persone, questo invece, farei. E invece loro prendono proprio la tua compagna, che fai? Ma io non, beh, allora mi ribellerei, userei quelle, le armi che ho, cioè, ma non ho, non mi armo, cosa devo fare? Non mi armo. Ma tu l'hai presa un'arma, Mauro, l'hai presa o no? Ma quella sera io avevo il fucile denunciato di mio padre cacciatore. Ah, tu ce li hai, ma sì. Adesso dormi con il fucile accanto o no? No, quella sera ho preso la scure. Ma dove ce l'hai? L'unica roba che avevo, lavoro con le scure, attrezzi, sgorbi. Sì, certo, ma adesso dove ce l'hai i fucili? Dietro lì, possono venire, l'ho messo con una catena col lucchetto, come prevede la legge, sì. E c'ho un automatico. Senti, a proposito, ma sull'eutanasia di cui si sta parlando, tu hai messo a punto quel piano definitivamente oppure no? Non l'ho ancora messo a punto, però io l'eutanasia me la do io, perché in un paese dove si deve morire tribolando, marcendo di dolore e di morfine, e non si può, allora me la do io, o se no vado in Svizzera. È un paese incivile questo. Non c'è dubbio. È senti, un paese incivile, senti, questo è vero. Senti una cosa, ma quante volte ti masturbi tu? No, adesso non riesco neanche più. Ma nemmeno a masturbarti, non ce la fai più? No, un po' mi preoccupa, però insomma. Cioè, masturbazione non ci riesce, non ti va più? No, mi andrebbe, ma non riesco più. Che non riesco a fare. Un problema contrario ai giovani che hanno l'eiaculatio precoce. Io l'ho ritardatissima, e più, ma ti giuro, non sono bugie. Cioè, non ho capito, non riesci più a venire, non ho capito. A masturbarmi no. Ma non riesci a masturbarti perché non ti tira più o perché. No. Mi funziona, ma devo avere una donna. Ah, non riesci da solo, non riesci più da solo, non più, ma non saranno riesci. due anni e mezzo. Cioè non ti viene, dopo un po' non ti va più, vabbè. No, da solo no. Vabbè. L'ho fatto abbastanza in collegio, posso anche rassegnarmi. Vabbè, ti abbraccio, un bacio, ciao. Ciao ragazzi, ciao, vi abbraccio. Ciao caro. Ciao. Non ti vesti? Non mi posso vestire. Perché? Ho bisogno di un indumento intimo. Che è? Che indumento intimo? Vedi, ti arrabbi già? Ma no, non mi arrabbio, avanti, parla, chiacchieri, che ti devo dare? Ho bisogno di una camicia pulita. Una camicia? Quanto te l'ho data sta camicia pulita? Vedi un po' te l'ho data. Quante mamma me l'hai data? 15 giorni fa. 15 giorni fa? E meno di 15 giorni potevi venire a casa. E quando la devo dare? Ma perlomeno un mese, e si capisce? Come un mese? Ma si sa, a furia di lavare la biancheria si rovina. Spettacolare film di Totò con la moglie che vuole fargli tenere la camicia per un mese. Alessandro da Torino, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Intanto siete fantastici, complimenti per la trasmissione. Vabbè, dai, forza, volevo solamente dire questa cosa in breve. Allora, secondo me il tizio di Brescia che ha sparato, a parere mio, ha sbagliato perché si è messo troppo in mostra in facendo questo gesto. Che vuol dire che si è messo in mostra? Che si è messo in mostra, che non vuol puoi, dire un cazzo, no, che si è messo in mostra. Cruciani, non puoi sparare dal balcone perché a me è capitato di rimanere. Sì, ma non è che si è messo in mostra, che c'entra che si è messo in mostra? Ragazzi, ma vi voglio far risentire, vi devo far risentire quello che ha detto Nordio, che uno si può proteggere. Sì. Io non ho detto che bisogna farlo, che uno può è legittima ma difesa non anche. Non c'è nessun pericolo di vita della persona che non c'entra. Allora, la banca è assicurata, i conti della banca sono assicurati. Uno. Ma quello che non è, appunto, a maggior ragione, quello non voleva difendere il bancomat, voleva difendere se stesso, tra l'altro. Ma non gli stavano rompendo il cazzo a lui. Chiama i carabinieri in quel caso. Chiama i carabinieri. Talmente la palissiano. Ma arrivano dopo dopo mezz'ora, tre quarti d'ora. Vabbè, ho capito, quello è un problema delle istituzioni italiane. Quello è un problema loro. Dai, ragazzi, non puoi condannare chi si difende più del malvivente, è una vergogna, dai, no, punto e basta. No, dai. Non sto difendendo chi si difende, Cruciani. No, ma chi c'è? Tu hai detto che hanno fatto bene, punto. No. A condannarlo, dai, forza. Nicola Treviso, vai. Nicola. L'hai detto tu, Nicola Treviso, vai. Eccomi qua, salve Cruciani, buonasera a tutti. Io sono uno di quelli che vuole ridere quando sente la zanzara. Ultimamente non riesco perché date notizie che effettivamente fanno male queste cose, queste. Vabbè, insomma, che cos'è? Una lezione su come dobbiamo fare questa trasmissione? Dai, forza. No, assolutamente. Allora, volevo solo dare avanti, delle buone notizie. Una buona notizia. Ma dai il cazzo che ti pare, dai, forza. Ok, a Treviso guarda caso, hanno arrestato il figlio sì. di quello ucciso da Stacchio. Bravo, questa è una okay. buona notizia, un'ottima notizia tra l'altro. Ha arrestato 21 anni, sì. armato. Come dire, buon sangue non mente, no? Eccolo, buon sangue non mente. Altra cosa. Da queste cioè, ripeto, parti... hanno arrestato il figlio di quello ucciso, famoso, da cui tutto è nato, diciamo, questa discussione sulla legittima difesa. Quello ucciso dal benzinaio, da Stacchio. Sì, sì, sì, sì, d'accordo. Allora? Okay. Vabbè. Altra bella notizia, per fortuna sono sì. riusciti a sequestrare 2 milioni di euro, guarda caso, una famiglia rom da queste parti. Eh beh, qualcuno benissimo. Sostiene. Ogni volta che i criminali vengono catturati, io sono solo felice, quindi ottimo. Fermo lì, grazie Nicola, fermo lì. Ciao, ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì. sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Quererami, merda, quererami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Ispiro come Macron. Ispiro come Macron. Ispiro vuol dire fatto da tante cose. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Zanzara. Ascoltami Parenzo, mi stai sulle palle. Sei anche un ebreo. Parenzo, Cruciani, io abito in Van Brembana e di migranti qua ce ne sono già abbastanza, troppi direi. Nessuno li vuole, li guardiamo tutti con diffidenza. Fanno solo casini, si prendono ammazzate tutto il giorno, hanno sfrattato un convento di suore di clausura per ficcarceli dentro. Li hanno messi addirittura nell'hotel di una stazione sciistica che da quest'anno non riaprirà i battenti perché ci sono i migranti. Ci prendono ammazzate tutto il giorno, i carabinieri sono su in questa stazione sciistica 5 volte a settimana e ci hanno rotto il cazzo e qua nessuno li vuole. Che cacchio dice Librandi di ripopolare la Val Brembana? La Val Brembana si è spopolata perché non ci sono i servizi, non ci sono i servizi, non ci sono gli autobus, non ci sono le farmacie, non c'è l'ospedale, non c'è niente, non li hanno fatti per gli italiani, non ci sono neanche le strade, non li hanno fatti per gli italiani, cosa devono farli? Per gli immigrati? Ma che cacchio dice Librandi? Ma che cacchio dice? Allora, so che ti farò incazzare, David, ma è giunto il momento di chiamare il signor Roberto Fiore. Roberto no, Fiore, ma io non ci parlo con leader di Forza Nuova, al centro di polemiche in questi giorni dopo quella manifestazione sotto il gruppo Repubblica. Non credo Espresso. Che ci parlerò. Ma no, ci devi parlare, perché non ci vuoi parlare? Mica, a parte che parliamo con chiunque, con latitanti, criminali, un ex latitante, criminali, gente condannata, adesso non vuoi parlare con Fiore solo perché è fascista, o comunque no, perché mi, si no, rifà al fascismo. Perché ha chiamiamo. Delle responsabilità gravissime. Ma vabbè, chiamiamo, dai, chiamiamo. Sì. Fiore? Chi è? Qui Radio 24, ciao. Eccomi qua. Come andiamo? Benino. Hanno proibito a Forza Nuova di fare questa manifestazione, contro manifestazione. Come? Tu vai lo stesso? Sì, andiamo lo stesso, staremo lì, faremo la nostra manifestazione, chiaramente cambia il carattere della manifestazione. In che senso, scusa? Beh, noi avevamo chiesto un corteo, un comizio con un corteo, sarà un altro tipo di manifestazione, ma saremo lì a manifestare. Vabbè, ma scusa, no, io con questo ex latitante non parlo. Intanto. No, vabbè, dai, basta con sta storia. È Parenzo che ti chiama ex latitante. Ti chiama ex latitante. Io con l'ex latitante non parlo. Io lo posso chiamare Checca Isterica se volete. Comunque, Checca Isterica non è un insulto, però siccome lei è un fascista, siccome lei è un fascista, lo usa come insulto. Lei è un ex latitante. Qual è la domanda? No, la domanda? No, non c'è domanda, è una no, io, ma la posso fare io la domanda? La posso fare io la domanda? La posso fare io la domanda, Davide? Perché secondo me l'occasione di domani. A come un'ottima occasione no, per arrestarvi tutti. Ma è dopo domani poi non è domani è un'ottima occasione se siete tutti lì, anzi li convochi tutti lì Ma perché, li devono arrestare? Ma perché li devono arrestare? Guarda che sei incredibile. Io credo che ormai siamo arrivati al punto. E vabbè, quando li arresteranno, li arresteranno. Lui può tornare a Londra, perché è stato latitante a Londra per tanti Ma mi fai anni. Parlare con Fiore un secondo? I suoi schiavi, un esiliato politico mai accusato di un crimine. Ma lei è stato un latitante. Vabbè, se fosse adesso un criminale lo arresterebbero in Italia, no? No, non lo arrestano. Dovrebbero arrestarlo per incitamento all'odio, sicuramente. Va bene, per te così, per la polizia e per i magistrati, vedremo. Prima domanda è questa: perché siete andati? C'è domande da fare, c'è da arrestarlo. Ma fermo qui. Un attimo, vuoi stare fermo un attimo? L'hai già detto. Ma lo fai decidere? Lo fai decidere ai magistrati, alla polizia, se va arrestato oppure no? O lo devi decidere tu? Ti stai dimostrando fascista tu in questo caso. Ma ti posso dire? Ti posso dire che ti stai dimostrando fascista? Anzi, allora, posso dire una cosa a Roberto Fiore, che è questa: perché vi siete rimessi nei guai andando sotto la sede di Repubblica? Spiegami questa cosa qua, non c'era bisogno di fare sta sceneggiata, no? Allora, c'è stato un atto di violenza? C'è stata una minaccia? Beh, il fumogeno sì. C'è stato un lavoraccio a qualcuno, ma i fumogeni sapete perfettamente cosa sono. Intimidazione! Aspetta, mi fai parlare, dimmi. Uno. Numero due. Noi siamo stati vittime, effettivamente vittime, di una campagna forte d'odio da parte della Repubblica, dell'Espresso, eccetera. Ma quella è una campagna giornalistica, Fiore, però siccome le querele che io ho fatto sempre querele e anche guadagnato un sacco di soldi dai giornali, compresi la Repubblica. Cioè quanti soldi ti hanno dato? Mi arrivano dopo 7-8 anni. Quanti soldi ti hanno dato Repubblica fino adesso? Non ho capito. Centinaia di migliaia di euro, e loro lo sanno benissimo. Quello che io voglio far capire all'opinione pubblica è che noi non vogliamo subire questa campagna d'odio, perché poi dopo le campagne d'odio ci stanno i veri fatti di sangue. Questo è quello che vuol dire? Che vuol dire che noi quest'anno solo abbiamo subito aggressioni, attacchi alle nostre sedi, ma da parte di chi? Banchetti feriti, gente ferita con le spray. Cioè, tu stai dicendo che per colpa tra virgolette delle inchieste giornalistiche di Repubblica assaltano le sedi di Forza Nuova? Certo, perché se tu dici che dalla sede di Forza Nuova parte la gente per prendere a spangliati bengalesi, questa è un'istigazione a delinquere, perché io so perfettamente che arriva l'anarchico scemo, perché c'è nella storia d'Italia sempre l'anarchico scemo che mette la bomba. Che comunque spara. Stai dicendo che lui sta dicendo che qualora ci fosse una bomba e degli anarchici, non è loro, capito? Cioè, che stupidaggio sta dicendo? Il mondo contro di noi, noi abbiamo avuto le nostre sedie attaccate. Fermola. Abbiamo avuto negli ultimi mesi dei banchetti con gente che ha attaccato con le spranghe, che ha ferito la nostra gente. Non dice idiozie, Parenzo. Allora, tu stai dicendo che però non so chi, il direttore, vertici del gruppo Repubblica, non so chi, stanno facendo una operazione criminale nei vostri confronti. Cioè che sono loro dei criminali, sì o no? Beh, allora se c'è diffamazione, se c'è istigazione delinque, certo che sono criminali. Hanno fatto una campagna pazzesca. Se viene lanciato un fumogeno di fronte alla perché siete andati col volto coperto? Non ho capito. Beh, prima di tutto lei sa bene, quello è anonimo, su un'altra cosa. Se la fanno i centri sociali o se lo fa Pinco Pallino, tutti a ridacchiare. Se lo facciamo noi è un'azione inquietante e incredibile. Ragazzi, riportiamo la cosa a quello che è avvenuto. Un gruppo di 12 persone è andato a mettere uno striscione in cui si dice di boicottare la Repubblica e il gruppo Espresso, perché dicono una marea di bugie. Io sono stato il primo a dire che hanno fatto una cagnara per 10 persone, dunque per quello che cagnara? Un'aggressione, ci rendiamo conto che oggi Gabrielli dice che è molto più grave quello che è avvenuto a Repubblica piuttosto che la bomba fuori della caserma. Sono impazziti. Quello è incredibile, quello è veramente incredibile. Ma secondo te vi metteranno fuori legge? Ma magari lo facessero? Perché guardate, questa volta non sarà come 40 anni fa, che si mettono dentro centinaia e centinaia di ragazzi di 19 e di 20 anni. Qui c'è un po' differente, c'è un popolo che è incavolato. Vabbè, quello adesso, attenzione, se noi stiamo tenendo tutto all'interno della legge di una logica politica, perché io parlo di guerra politica al Partito Democratico, dovete ringraziare Dio. Perché? Che c'è Forza Nuova che sta contenendo tutto in un ambito di libertà. detto magari, tu hai detto magari, magari mi sciolgono, hai detto. Magari mi sciolgono. No, ma magari diciamo così che una cosa, cioè vi fanno un regalo, vi fanno un regalo. Potrebbe essere anche un regalo. Io voglio capire una cosa, caro David, tu veramente pensi che fare una manifestazione con 10 persone con i fumogeni, per carità, io non l'avrei mai fatta e chi se ne frega, sia una cosa criminale di attacco alla democrazia, secondo hanno te? Hanno fatto questa è l'ultima, sistematicamente intimidazioni. Io non voglio mettere l'aggettivo fascista perché è desueto. Intimidazioni violente. Questo uomo che sta parlando al telefono con te, perché con me non parla, io non ci parlo, questo uomo che sta parlando con te ha una responsabilità criminale di primo ordine. Ma che vuol dire? Che cosa? Così io potrei fare subito querela. Allora che devo fare adesso? Venire là di fronte a Parenzo e dirgli personalmente quel pezzo o querelarlo? Ma per che cosa? Qual è la responsabilità criminale? Spiegami. Sparare su Parenzo e sparare sulla Croce Rossa. Quindi non faccio nulla. Però Aspetta un attimo. Solleva l'odio nella gente. Istiga come hanno scritto nel post su Facebook quelli di Forza Nuova. Quando dice che io faccio azioni criminali, ma dove? Istiga dei ragazzotti violenti a commettere reati, perché quando lei scrive pubblicamente sul post di Facebook di Forza Nuova seguiranno altre azioni, difenderemo la patria anche a calci e pugni, scritto nero su bianco. Perché è scritto calci e pugni, Fiore? Perché è scritto calci e pugni? A parte vabbè, ma non l'ho scritto io, ma si dice se ci dobbiamo difendere a calci e pugni, è un altro discorso. Vabbè, però hai utilizzato le parole calci e pugni. Ma qual è il discorso? Ma ragazzi, a calci e pugni dove? Se voi non lo sciogliete, noi abbiamo tutto il diritto di fare tutte le attività questo che vogliamo. Su questo però ha ragione, cioè o lo sciolgono. O Forza Nuova rispetta le regole democratiche, o un movimento che scrive nei propri social network che ci difenderemo a calci e pugni e rivendica l'uso della violenza è fuori dalla democrazia. Dov'è che rivendica l'uso della violenza? Questo stronzo che sta parlando al telefono, perché è uno stronzo, dice di frequentare le periferie, se ne sta a Londra. Dove le paga le tasse? A Londra o in Italia? Dove le paghi le tasse? Ma che è pure in agente delle tasse sta parlando. Genius Italicus, dove le paga le tasse, Fiore? È a Bruxelles. A Bruxelles. Adesso tutte le tue tasse le paghi a Bruxelles. No, le tasse sì le pago a Bruxelles, ma anche in Italia. Ma non è rilevante. La notizia vera, Cruciani, è questa. È che questo signore qui paga le tasse a Bruxelles e a Londra. Ma nasce un fiore, no? Ma che c'entra? Uno non può pagare tasse a Londra, no? Perché è un crimine pagare tasse a Londra. No, sai perché? Lo diciamo a tutti quelli che lo ascoltano, Fiore, no? Lui è uno di noi, uno del popolo. Paga le tasse a Londra! Come le capo sei. Ma che c'entra il Capone? Ma è uno scemo questo, ma lasciate perdere. Io non ho capito, ma se c'ha le sue... Era una checca, vero? Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Anche lui, Buscetta, ti ho sentito. Ciao, Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci. Parenzo alla lavagna, prendi il gessetto e scrivi 20 volte. L'unica donna che sai quanto ti costa è quella che paghi. Davide! Parenzo, quando ti incazzi mi viene voglia di masturbarmi. Ma Annuna ha sentito questa roba? Annuna, questo benissimo. No, Annuna se n'è andato che aveva appuntamento, un date con una ragazza. Si doveva trombare una, dai, si doveva trombare una. Non lo so. Annuna non è fidanzato, mi sembra. No, no, è single imperterrito. No, vive il poliamore lui, poi magari lo spiegherà nel prossimo. Stupendo, poliamore. Comunque quello è straordinario, quella intervista fatta all'ex latitante, che non mi ricordo come si chiama. Fatta, c'eri pure tu, amico mio. Quell'intervista fatta, c'eri anche tu. Quella che hai fatto tu all'ex. Pochi minuti fa. Ah, perché tu dici non vuoi, perché non vuoi parlare, perché non volevi. Esatto, io rivendico il diritto di averlo solo insultato, perché questo lo rivendico proprio. Sì, ma secondo me hai fatto una figura di me alcuni dicono grandissimo, sì. Parenzo si è fatto attaccare il telefono. Ma il dato vero è la notizia che abbiamo tirato fuori, che ho tirato fuori grazie anche al tuo aiuto ovviamente, ma che questo signore che difende l'Italia e gli italiani paga le tasse all'estero per pagarle meno. No, perché c'ha le aziende, capito? C'ha le società per le periferie. No, allora spiego, c'ha le società a Londra. C'ha le società a Londra. E prende i soldi come aiutante del Parlamento europeo. Di Soros. E poi dice di Soros. Ma che cazzo c'entra, dai, con Soros? Che fa della vita, giustamente lui fa lo speculatore e lo dice giustamente, signor Soros, no? Quindi questo fa il suo lavoro. Ma quello lì che dice di difendere gli italiani e va nelle borgate a raccogliere e a izzare l'odio, sappiate che paga le tasse all'estero! All'estero! Ladri! I'm so sorry. Altro che Forza Nuova! Forza tasse! Forza tasse! Non Forza Nuova! Dovete cambiare il logo! Aspetta. Non prima gli italiani, prima gli inglesi devi dire! Prima gli inglesi! E i belgi! Aspetta. E i belgi! Lo dovevo fare! Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Esatto! Questa capace pure che questa paga le tasse. No. Questo ci stava perfettamente. Questo ci stava. Cambiate il nome. Non è Forza Nuova. Forza Belgio dovete chiamarla. Forza Belgio. Allora. E ha chiuso il telefono. Senti, lo ha chiuso, capito? Senti che geni. In Austria. In Austria fanno la pubblicità, vedi come ci fottono. Non abbiamo nemmeno le palle per fare una legge che legalizza la prostituzione. Figuriamoci se possiamo fare il fine vita o altre cose. Una cosa normale, semplice, la legalizzazione della prostituzione. Per questa maledizione che abbiamo, che non mi fare parlare che già col Vaticano abbiamo problemi. Per varie maledizioni che abbiamo non possiamo fare una legge che legalizza la prostituzione. Bravo. E senti i geni che cosa si inventano per pubblicizzare in italiano. Bravo. I bordelli in Austria. Ho proprio voglia di emozioni forti. Qualche idea? Una bella sciata fuori pista. Andiamo! Ma no, più eccitante. Fammi pensare. Andiamo! Puoi stare zitto. Ascolta il tuo uccello. Andiamo è l'oasi di erotismo e benessere per chi vuole vivere esperienze mai provate prima. Vieni a trovarci a Villago. Info sul sito andiamo.at. Ascolta il tuo uccello. Andiamo. Io non so se è vera questa. Ma è vera o no? Secondo me sì. Gira da un po' di tempo, non l'ho mai messa, però mi è venuta in mente oggi perché me l'hanno rimandata. Ascolta il tuo uccello. Devo dire che c'è della genialità assoluta in questa cosa. Ascolta il tuo uccello. Ma scusami, ma no, per tornare all'argomento di prima che mi interessa molto, ma Fiore, anziché fare il leader di Forza Nuova, perché non fa il consulente fiscale? Mi pare che sia molto abile in quella roba lì. Paga le tasse a Bruxelles, amici delle periferie. E a Londra, e a Londra. Amici delle borgate. Burgate, vive a Londra, sì. A società. Ma non vive a Londra. A Londra. E paga le tasse a Bruxelles. Faccia il consulente fiscale, il tributarista. Faccia il tributarista. Non faccia Forza Nuova. Forza Belgio. Forza Belgio. Allora, pare che in provincia di Latina, per dei furti che ci sono stati, girano delle ronde. Girino delle ronde. Senti che mi hanno mandato degli audio, mi mandano di tutto. Audio di alcune ronde. Senti. E che te so di? Una volta che magari uno è convinto che comunque li prendi mentre stanno dentro l'appartamento, se camminano in mezzo alla via, il cazzo li vedi. Ma una volta che lo vedi dentro un appartamento e gli scotenni come gli Sioux, come gli indiani, sta a posto, nessuno dice niente. E la chiama anche i carabinieri, i vidi quanto metto la costa e gli di sotto là tu guarderai e metto la costa. E poi va a sapere che sei stato lui, che cazzo saremo noi. In Ciociaro dovete prendere il ladro e triturarlo e buttarlo sotto la strada. Comunque arrivano conferme da Udine, gira sulle radio locali e una pubblicità locale per attirare i clienti, capito? Portano i clienti su, tolgono lavoro, portano soldi in Austria. Il peggio di Librandi ieri sera, vai! Per te è normale che abbia preso 4 mesi in più rispetto al rapinatore? È normale, assolutamente. È normale. Tu sarai con la dentiera, sarai in un mondo completamente diverso dove non ci sarà nessun problema perché sarà tutto controllato con le telecamere. Ah sì, tra 20 anni certo, spariranno i ladri tra 20 anni. Voglio gli immigrati nella Val Brembana. Quanti immigrati vuoi ogni anno in Italia? 120, giusto? 120. Voglio gli immigrati che coprano quelle zone dell'Italia spopolate, tipo la Val Brembana, bravissimo, tutti i paesi dove ci sono i leghisti. Sì, la Val Brembana. Quando io avrò 90 anni, compreremo i migranti a peso d'oro. E se ne sono andati da Val Brembana? Quando avrai 90 anni, li andremo a comprare a peso d'oro. Hai capito? Quando sarai un po' rincoglionito che ci avrai bisogno della badante. Tu lo sei già adesso, già adesso. Cioè, già io adesso, ce l'ho già adesso, adesso. Sì, esatto. No, lui, dico, lui tu adesso. Lo sei già rincoglionito, per cui dai. Stefano, provincia di Brescia, vai Stefano. Oh, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. In riferimento al fatto di lavarsi o meno, io volevo dire, Parenzo, sei una fighetta. Sei una fighetta. Solo le donne pensano a lavarsi tutti i giorni e a cambiare le lenzuola una volta alla settimana. Gli uomini badano di più alla sostanza, le donne badano di più alla forma. Gli uomini ma queste sono generalizzazioni. La polizia è forma, devono essere puliti è forma. Questa è una cazzata. Ma se tu vuoi puzzare, puoi puzzare. Io sono contrario a qualsiasi generalizzazione, compreso questa. Guarda che conosco tante zozze. Non è una generalizzazione. Sì, no, conosco tante. Sì, amico mio. La mente dell'uomo si basa di più sulla sostanza. Ti posso superare. La donna ma... Fermi tutti. Che succede? Fermi tutti, che pubblicità succede? Progresso. Vuoi pagare meno tasse? Vuoi aprire un'azienda all'estero? Chiama Forza Nuova, vota Roberto Fiore. Lucia da Roma, Lucia da Roma. Oggi, da oggi io questi li combatto, non più sul tema del fascismo, pagatele, ti dici il vostro, ma sul tema di dove pagano le tasse, di dove paga le tasse il leader che va nelle borgate. Vuoi pagare meno tasse? Vuoi portare la tua azienda all'estero? Vota Roberto Fiore. Rita. Anzi no, Lucia. Pronto? Lucia. Pronto, ciao. Dimmi. Volevo parlare sulla questione della doccia. Veramente ha ragione l'ascoltatore di prima, dice che tu quanto ti lavi fighetta. Tu? Quanto ti lavi? Io me la faccio una volta a settimana proprio perché. Ma amico mio, ti abbraccio fortissimo, una volta a settimana, stupendo. Ma sei un'eccezione, sei un'eccezione, sei grandiosa. Sì, però lo voglio dire anche a quello scemo che ha chiamato prima, che cioè, le femmine propone maschi puzzano, ma 3 anni. Quanti anni hai, Lucia? Quanti anni hai? Sono 32. Quante volte scopi a settimana? Settimana un paio. Ma sei fidanzata? Sì, viviamo pure insieme. Vivete insieme, è giusto. 2 volte a settimana, anzi, è pure tanto. Da quanto tempo state insieme? Pure troppo. Da quanto state insieme? 7 anni. 7 anni. Ma io sei impazzita, sei. Siete diventati matti. 7 anni, 2 volte a settimana è tantissimo. È come scopare 3 volte al giorno, amica mia. Cioè, ti assicuro, 2 volte a settimana da 7 anni è come scopare 3 volte al giorno. È un miracolo assoluto. Siete un'eccezione totale. Tradimenti, cose. Bene per loro. Tradimenti? Che io sappia, no. Tu niente? Mamma mia, io come no, siete neanche. Antiquati. Da 7 anni state insieme, scopate 2 volte al giorno, nessun tradimento. Ma che cazzo dobbiamo fare? Scambi di coppie, cose di questo tipo fate? Praticate no, questa roba qua, niente, roba no, normale. Mamma mia, che noia. Normale. Che noia, ciao, non ciao. Ho provato, ma... Che noia, ciao. Hai provato o no? Non ho capito. Cioè, ho provato a convincerlo, ma... Ah, tu hai provato a convincerlo? Ho provato a chiedergli. Attenzione, ma... attenzione. Cioè, tu con chi... Tensione, tradimento. No, tradimento non lo so, vabbè, tu faresti con chi... In maniera onesta, ho detto, vabbè, ma con una donna? Cosa... Con una donna faresti o con un altro uomo? Con tutte e due, indifferentemente. Cioè, indifferentemente, cioè, ma anche che porcheria ma che porcheria è? Ma chiama Nuna, va, chiama Nuna. Oddio Parenzo, missionario. Mamma mia, no, missionario. Ma voglio dire, missionario è la posizione, però, è la posizione missionario. Appunto, cioè, farà solo quella, perché se mo ma io solo... come ti permette, cosa faccio, faccio io, ma voglio dire. Ciao cara, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, voglio chiamare in conclusione, dato che sei a Gerusalemme, un signore che ha grandi simpatie. Ha grandi simpatie per il popolo palestinese. Un signore che si chiama Fulvio Grimaldi. Ve lo ricordate quello col cane? Quello che è il TG3 che porta, che andava in giro col cane. Signor Grimaldi, dai, grandi simpatie per il popolo palestinese. Chiamiamo, voglio sentirlo, ti prego. Ho nostalgia. No, ma. Pronto? Sì, sto parlando con Fulvio Grimaldi. Chi è? Grandissimo, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, buonasera. Buonasera. Come sta Grimaldi? Grazie, abbastanza bene, ci sentiamo da un po' di tempo. È da un po' di tempo che non ci sentiamo, sì. No, io la volevo interpellare su questa questione di Gerusalemme, insomma sta scoppiando, sta scoppiando un grande casino. Direi che è logico, uno se lo poteva anche aspettare, uno tocca un nervo scoperto, forse tra i più scoperti del mappa globo. E dire che Gerusalemme è la capitale è un crimine secondo te? No, Gerusalemme è la capitale di due stati, lo è stata magari qualche decennio, qualche secolo fa di una certa tribù, poi lo è diventata di un altro popolo che è stato invaso, espropriato e gli hanno tolto non soltanto la capitale ma la terra. Come giudichi di quello che stanno facendo lo Stato di Israele ai palestinesi? Come lo giudichi? Giudico con una parola sola, colonizzazione. È una colonizzazione di tipo particolarmente feroce. 60 anni fa lì c'erano 14 ebrei e qualche milione di palestinesi. Adesso sono 3 milioni di ebrei o di israeliani immigrati e non ci sono più quasi palestinesi, almeno non ci sono più territori palestinesi. Basta confrontare la terra la mappa della Palestina di 60 anni fa e quella di adesso. Cioè li stanno eliminando secondo te? Se non altro è un nazionicidio. Ma quelli hanno eletto dei criminali al governo come Hamas e un fantoccio come Abu Mazen che non conta nulla e che vuole essere fatto fuori pure da Hamas, ma figurati. Sulla seconda parte del tuo discorso sono d'accordo che Abu Mazen è un fantoccio che non conta nulla e difatti la tragedia dei palestinesi è che non hanno una leadership. Hanno eletto dei criminali, dei terroristi al governo che è Hamas e quindi non sarà mica problema di terrorismo. Poi hanno autonomia. Di terrorismo sono i più esperti al mondo, sono sicuramente gli israeliani, lo praticano da quando sono arrivati da quelle parti. Tu stai dicendo che il terrorismo della storia del Novecento è quello israeliano. Tu stai dicendo che lo Stato di Israele è uno Stato terrorista praticamente. I capi di Stato israeliani di quegli anni erano terroristi, poi sono diventati capi di Stato. Eppure Netanyahu è terrorista. Pure Netanyahu è terrorista? No, Netanyahu è un colonizzatore, è un feroce colonizzatore, è uno che pratica l'apartheid, peggio del Sudafrica. Peggio del Sudafrica. Il palestinese è un popolo senza diritti, senza sovranità, senza nessuna prospettiva. Cioè, mi stai dicendo che lo Stato israeliano pratica l'apartheid? Sì, io sto dicendo che lo Stato israeliano questa volta ci hai preso, pratica l'apartheid. Tipo il Sudafrica? No, peggio. Peggio del Sudafrica? Cioè, peggio dell'Iran secondo te sono? Ma molto peggio dell'Iran. L'Iran e l'Iran ci sono. Io ho intervistato la comunità ebraica nell'Iran che era felicissima di stare in Iran e ce l'aveva a morte con coloro che avevano diffamato il nome degli ebrei alla maniera di Israele. Ma non diciamo cazzate. L'unico stato democratico del Medio Oriente è Israele. Si può fare gay pride, c'è una corte di giustizia. Alla grande si possono fare le elezioni. Anche noi possiamo fare le elezioni. Non contiamo un cazzo perché qua. Conta soltanto la NATO, Bruxelles e nessun altro. Ma io non ho capito perché disprezzi delle democrazie e ti piacciono le dittature. Ma non sono democrazie, proviamoci per i fondelli, non sono democrazie, sono delle prove gigantesche. Quali democrazie? Perché io ogni 5 anni posso andare a votare per Netanyahu mentre il mio villaggio è chiuso, è separato, non posso muovermi, non posso andare di qua, non posso andare di là, non posso studiare, eccetera. Ma che razza di elezione sono? È un popolo espropriato, ma vogliamo lasciare come la lotta altre considerazioni. Come lotta. Esiste una cosa che si chiama autorità nazionale palestinese, esiste una cosa che si chiama striscia di Gaza. Sulla striscia di Gaza governano quei criminali di Hamas che sono nella lista nera di tutte le organizzazioni internazionali terroristiche, perché Hamas è riconosciuto nel mondo come un'organizzazione terroristica. Hai fatto un lapsus freudiano perché hai detto che Hamas è nella lista di tutte le organizzazioni nazionali terroristiche. Quali sono? Io direi che sono l'ONU, io direi che sono l'Unione Europea, io direi che sono il Fondo Monetario Internazionale che hanno ridotto. Ma come vi permettete di parlare dei palestinesi di Hamas che neanche sono più in grado di lanciare un sasso nei confronti del paese militarmente più avanzato, più potente di tutto il Mediterraneo, il secondo al mondo, sono 5 milioni ognuno dei quali c'è una bomba atomica in tasca. Ma ragazzi, vogliamo scherzare? Senti, ma che ne pensi di Soros, del signor Soros? Probabilmente è molto amico di coloro che stanno cercando di mettermi in bocca delle cose che io non dico. Soros è uno dei più grandi destabilizzatori. Promuove l'immigrazione, diciamo. Indubbiamente ha sostenuto un sacco di organizzazioni che sostengono l'immigrazione. L'immigrazione è un piano, secondo te? L'immigrazione è un'operazione che serve moltissimo soprattutto a svuotare i paesi che hanno delle risorse nel sud del mondo, dove poi vanno le multinazionali, non c'è più la gente, non ci sono più i giovani sono dalle nostre parti, sono nei campi del caporalato, sono negli altiforni, sono a fare le badanti. Allora, dice come Salvini. No, io sento due voci che si sono Parenzo dice la stessa tesi di Salvini. Parenzo, mio amico David Parenzo, come Salvini, hai la stessa posizione di Salvini, intuire che sei tu, è che con quel nome non puoi dire diversamente, altrimenti esci dalla tribù. No, ma che c'entra quello? Io penso con la mia testa, non frega niente, sì, non è vero. Vabbè, ciao caro, ciao Fulvio, ciao, caro a te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutami Davide a Tel Aviv, che sta bene lì. Ciao, ciao, ciao, ciao. Benissimo. Intanto, caro David, caro David. Ma quante mi hai fatto, me ne hai fatto sentire uno di normale oggi, Corona. Corona. Intanto dalla vostra parte la signora Rosina con il forcone in mano. Chi è la signora Rosina? La signora Rosina, quella là che è stata rapinata, no? Ma col ferro da stiro. Aspetta, col col forcone in mano, con la scritta sotto, assediati dai ladri, giusto sparare? Così diventa il Far West. E c'è suo marito, sempre con un altro forcone, che dorme nella poltrona. Ti mando l'immagine, ragazzi, andate a guardare l'immagine, straordinaria, dalla vostra parte. Noi domani non ci siamo, andare in onda è meglio di... Oh, che meraviglia. No, meraviglia un cazzo, a lunedì, ciao. Ciao. Ovvio, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio. È così, è così, è così. È così, è così, è così. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. E comunque viva il Pio!